Chicos. Avanti. Gigi! Ui, briciola! Allora... Un camaravaletto gioco, gara! Io sono titolare, un caretto, mangio, e per stanotte, alla buona! Oh. Io sono col bambino a casa. Una trasformazione, cioè. Il tuo vizio mi di andare a lavorare. Ecco il vizio come avevo preso io. Vai Natali! Questo vizio. Chi non fa mai di domani mio Natali? Chi su Burughi è vero. Ciao Antù. Ben sentito, buonasera a te due. Cavolo, buonasera, e beh, come va? Sì, come va? Mi hanno rimesso oggi dall'ospedale, sono a casa. Kappa. Sta un po' meglio, no? Lugano è la badona, agitano. Yeah.